AVS Media Demo. Con tanti altri precari lavoratori nella vita fa, una volta si chiamava Net Turbino. Ora si chiama operatore ecologico. La situazione è un po' migliorata da questo punto di vista. Mi pagano. A livello di stipendio diciamo di sì, però come si dice a Cosenza. AVS Media Demo. Ma la musica è sempre quella, è rimasta sempre quella. Cioè adesso oggi, Ecologia Oggi, la Valle Creta è fallita, c'è un'azienda che si chiama Ecologia Oggi. A dire la verità ci paga lo stipendio ogni 15 precisi, però non ci danno AVS Media Demo. Ci pagano lo stipendio. I prestiti personali che abbiamo con che possiamo fare con una ditta privata o comunque pubblico privato, non ci hanno negato questo, però la gente sta zitta perché questa azienda comunque minaccia, diciamo che è una minaccia perché cioè, voi avete lo stipendio AVS Media Demo. Io ho sentito parlare di raccolta differenziata che sta per partire. Noi operatori non sappiamo di queste raccolte differenziate, noi svolgiamo il lavoro normale, cioè la raccolta di spazzatura di strada, no? Porta a porta non è mai esistita. AVS Media Demo. Questa porta a porta. Non abbiamo nemmeno l'idea di questa porta a porta. Facciamo un regolare servizio e in più abbiamo problemi alle discariche. Figurati che alla notte siamo fermi, non riusciamo a lavorare bene e comunque riusciamo a svolgere il servizio tranquillo. AVS Media Demo. L'anno scorso per garantirvi il posto di lavoro siete stati costretti a occupare un edificio dell'amministrazione provinciale per qualche mese, siete stati sui tetti anche voi. E sui tetti della provincia siamo stati un mese, circa un mese e mezzo, e non abbiamo risolto niente. Poi dopo di dalla AVS Media Demo. Siamo stati con una 14ª di 500-600 euro, ci siamo spostati, il periodo di Natale siamo spostati ad occupare il comune di Cosenza. Lì siamo rimasti tutto il periodo di Natale e il giorno prima di Natale ci hanno dato una 13ª AVS Media Demo. Per sbloccare la lotta del comune e poi è fallita direttamente questa azienda. Ci sono state delle passerelle come il ex sindaco Perugini, che era all'epoca era presidente del consorzio di Valle Crati, ci ha assicurato che questo AVS Media Demo. Addirittura ci avevano garantito altri posti di lavoro, in più parlavano di differenziata. Mi ricordo che era uscito un bando, un concorso, non mi ricordo che cos'era. La differenziata porta a porta. Di questa differenziata non si è mai parlato. AVS Media Demo. È arrivato al fallimento di questa azienda. I soci privati della Valle Crati facevano praticamente gli imprenditori con i soldi pubblici, non pagavano a nessuno dei loro dipendenti e hanno mangiato, cioè praticamente hanno rubato tutta questa AVS Media Demo. Ti ringrazio.